so più cosa son, cosa faccio. Or di fuoco rosso, non mi ghiaccio. Ogni donna cangiare i colori, ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna mi fa palpitar. Ogni donna. Ogni donna cangiar di colori, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna.